gli speciali di Radio 24. Televisione, le produzioni italiane piacciono all'estero, di Marta Cagnola. Elena, scena io vengo poco, ma vengo. Crei non te ne importa. Quello che fai tu o faccio io. Un saluto da Marta Cagnola, l'avete riconosciuto, era un frammento dell'amica geniale. Fedele al cuore del libro, rivoluzionaria, l'ha definita il Guardian, uno sforzo impressionante, una TV commovente ed efficace per Hollywood Reporter, un'epica intima, ha scritto il New York Times. Insomma, un successo non solo italiano, un successo internazionale anche per questa serie tratta dall'amica geniale di Elena Ferrante, una coproduzione italiana e americana di Rai ed HBO. È un esempio perché è un momento molto importante per la serialità italiana. HBO aveva già coprodotto con Sky The Young Pope di Paolo Sorrentino con Jude Law e ora sta realizzando The New Pope. La Rai invece aveva già affrontato una grande coproduzione internazionale con I Medici, insieme agli inglesi di Big Like Production e Lux Vide, e poi nel cast, ve lo ricorderete, star come Richard Madden e come Dustin Hoffman. È davvero una rivoluzione? È davvero un momento importante? Cerchiamo di capirlo con un ospite, professore di storia e di economia dei media all'Università Cattolica, Massimo Scaglioni. Eccoci Massimo. Ciao. Ciao Massimo. Buongiorno. Allora, cosa possiamo dire? È un momento importante, è un momento di cambiamento per la serialità? Stiamo vivendo in questi anni un vero e proprio, potremmo dire, un rinascimento della serialità, direi europea più che oltre che diciamo italiana, e un rinascimento della serialità europea rispetto al quale appunto l'Italia si è ritagliata un ruolo importante, un ruolo di primo piano. E diciamo che la novità più rilevante di questi anni è il fatto che in Europa, fino a poco tempo fa, la serialità, quella che noi chiamiamo la fiction, era diciamo prevalentemente o se non esclusivamente destinata ad un mercato domestico, ai mercati nazionali, con qualche eccezione ovviamente. E ora diciamo quello che è accaduto è una, si è verificata una forte crescita della capacità della fiction europea, della serialità europea di circolare in Europa, quindi in altri paesi europei, ma più in generale anche nel mondo. Citavi appunto prima i casi italiani come L'Amica Geniale, Young Pope, poi potremmo citare anche altri casi. E diciamo si è un po' invertita una tendenza che era molto solida dal punto di vista storico, perché siamo abituati a pensare alla serialità come serialità americana, come serialità che arriva dagli Stati Uniti, e questo accade diciamo dalle origini della televisione, e ora in qualche modo si cambia un po' la direzione, nel senso che anche i prodotti europei e anche i prodotti italiani riescono addirittura a sbarcare negli Stati Uniti. Sentiamo cosa ci ha detto Eleonora Andreatta, che è il direttore di Rai Fiction, che ha appunto coprodotto L'Amica Geniale, come tassello di grande percorso di internazionalizzazione. È stata un'avventura iniziata ormai qualche anno fa, perché noi abbiamo aderito al progetto immediatamente, poco dopo che il produttore aveva comprato i diritti della Ferrante, quasi prima che scoppiasse la Ferrante Fever nel mondo. E è un progetto che rappresenta veramente un tassello fondamentale in questo percorso di internazionalizzazione per portare l'Italia nel mondo, il meglio di quello che c'è in Italia, quindi il talento, la creatività, la nostra identità più profonda, e in questo caso un enorme successo letterario, perché quello della Ferrante è probabilmente uno dei casi editoriali più unici degli ultimi decenni, proprio per il successo, per la qualità dei suoi romanzi. In questo caso noi abbiamo collaborato con HBO ed è una collaborazione inedita, anche perché è la prima serie non in inglese negli Stati Uniti, con ovviamente i sottotitoli rispetto alla versione originale. E la Rai ha collaborato con HBO anche nello sviluppo editoriale, poi ovviamente con la produzione, Wildside e Fandango, seguendo tutte quelle che sono state le scelte di scrittura, di elaborazione, poi ovviamente il cast, con lo straordinario lavoro che ha fatto Costanzo nel tradurre le pagine in un film potentissimo e unico. Amica geniale, i medici, quindi a questo punto possiamo dire che anche in Italia la cosiddetta fiction ha fatto quel gradino in più. Un tempo papi, biografie, molto amate dagli italiani, difficili da esportare, adesso un'altra cosa. Sì, è proprio stata una decisione che abbiamo preso di puntare a un mercato globale, perché ormai i contenuti viaggiano nelle grandi piattaforme, arrivano in tempo reale rispetto all'uscita anche negli Stati Uniti, e quindi l'Italia, la RAI, ha deciso di puntare su quello che è appunto il nostro patrimonio culturale e artistico. La seconda serie dei Medici, poi L'amica geniale e poi Il nome della rosa, che invece vedremo nei primi mesi del 2019. Eccoci ancora con Massimo Scaglioni, professore di storia e economia dei media all'Università Cattolica. Massimo, a lungo noi abbiamo pensato che la fiction italiana, o la serialità italiana come la vogliamo chiamare, si concentrasse solo su alcuni tipi di storie, appunto le biografie, le storie dei papi, dei santi, delle storie estremamente italiane, estremamente rivolte a un mercato interno. E invece ci sono molte storie italiane che piacciono all'estero. Sì, esattamente. Diciamo che questa trasformazione è avvenuta abbastanza recentemente. L'Andreatta citava giustamente il ruolo che la RAI ha avuto e sta avendo in questo processo. Diciamo che questo processo, per quanto riguarda l'Italia, è iniziato un po' di anni fa, anzi direi esattamente 10 anni fa, nel 2008, ed è il motore, diciamo, di questo cambiamento in Italia, così come in Europa, e prima era accaduta la stessa cosa negli Stati Uniti, è stata soprattutto la televisione a pagamento, la pay TV, che ha più bisogno, come dire, di raccontare delle storie destinate anche ad un pubblico, se vogliamo, più di nicchia, delle storie più di qualità, ma anche delle storie capaci di poter parlare ad un pubblico, se vogliamo, trasversale, no? Di essere capaci di essere appunto esportate. E quindi questo è accaduto una decina d'anni fa, quando, a partire dal 2008, in Italia alcuni produttori, prima si citava Wildside, che ha prodotto sia L'amica geniale che The Young Pop, hanno iniziato, o Cattleya anche, ha iniziato a produrre dei contenuti. Dal 2008 in avanti potremmo ricordare ovviamente il Romanzo criminale, potremmo ricordare ovviamente anche poi Gomorra, certo. Che sono stati delle serie che hanno avuto questa caratteristica, cioè il fatto di essere delle serie, come dire, che hanno funzionato bene nel contesto nazionale, ma che sono riuscite a circolare molto bene anche a livello internazionale, ad avere un successo internazionale, persino appunto nei paesi di lingua inglese, in particolare gli Stati Uniti, dove appunto l'arrivo di prodotti non inglesi, appunto girati in lingua inglese è sempre stato molto complicato. E quindi diciamo che questo fenomeno va un po' inquadrato all'interno di quello che prima chiamavamo un po' il rinascimento della fiction europea. Pensa che se negli Stati Uniti in questi 10 anni i prodotti pay, quindi quelli realizzati da HBO ma anche dalle over the top come Netflix, sono cresciuti molto in termini proprio di numeri, sono più del 200% di crescita in termini di titoli, in Europa addirittura questa crescita ha toccato quasi il 500%. Accidenti. Cioè in 10 anni è cresciuta tantissimo, e l'Italia ha avuto un ruolo importante, diciamo, tra paesi che investono molto e che riescono a distribuire molto, come la Gran Bretagna e la Francia, e paesi invece che si sono affacciati più recentemente, come la Spagna e la Germania. Ecco, l'Italia è un po' in mezzo fra questi due territori, e se la sta cavando molto bene, devo dire. Allora Massimo, un attimo di pazienza, facciamo una breve pausa, poi ci ritroviamo ancora per parlare del grande momento delle serie televisive, di questo momento di internazionalizzazione. Ci ritroviamo tra pochissimo. Gli speciali di Radio 24. Siamo insieme per parlare di un grande momento della televisione italiana, della fiction, della serialità italiana, ma anche europea. Insomma, per tanti anni abbiamo importato tantissime storie, importato tantissimi prodotti audiovisivi. Adesso invece stiamo cominciando a produrre, coprodurre, far conoscere le nostre storie e il nostro modo di lavorare all'estero. Le stiamo parlando con molti protagonisti, soprattutto dal punto di vista produttivo del sistema dei media in Italia, ma anche con Massimo Scaglioni, professore di storia e di economia dei media all'Università Cattolica. Ancora con noi Massimo, eccoci. Eccomi, buongiorno. Allora Massimo, abbiamo detto storie che interessano sempre di più, ma c'è anche un modo di lavorare che deve diventare internazionale. I cast, le scelte, cosa può cambiare nel momento in cui si passa da una produzione a una coproduzione internazionale? Sì, infatti esattamente sono questi due ingredienti che hanno reso questi prodotti capaci di essere esportati. Il primo ingrediente sono quello che dicevi tu prima, delle storie che sono comunque delle storie molto radicate nel nostro paese, i contenuti, no? Pensate appunto alla criminalità organizzata piuttosto che al mondo, al Vaticano di The Young Pope. Dall'altra parte però c'è un linguaggio che si attesta sui migliori livelli della produzione internazionale. Da questo punto di vista si sono proprio trasformate le modalità produttive di questo tipo di serie, intanto perché sono normalmente delle serie abbastanza lunghe, insomma delle serie di formato medio o medio lungo, e questo ha portato nel corso degli ultimi anni a introdurre nel nostro paese una figura che è una figura, diciamo, tradizionalmente presente nell'industria televisiva americana, ma che invece per l'Europa e per l'Italia è un po' inedita. E questa figura è quella che gli americani chiamano lo showrunner, cioè una persona, un professionista che può venire o da un retroterra produttivo o da un retroterra di scrittura, di sceneggiatura, che però ha la capacità e ha, diciamo, la possibilità, gli è data la possibilità nella produzione di queste serie di avere un controllo quasi totale, per cui segue sostanzialmente lo sviluppo di una serie dalle origini, quindi da quando si inizia a scrivere, a quando poi si gira, quindi affianca prima gli sceneggiatori, poi affianca il regista o i registi, e poi fino ad arrivare, diciamo, alle fasi di post-produzione con il montaggio e addirittura le fasi di promozione. Per cui tutte queste fasi sono in qualche modo fra di loro legate. Queste serie hanno qualche cosa in comune: il fatto di essere, di avere una come dire, capacità di essere molto ben comunicate, no? E questo non è un caso, perché si parte da delle storie che hanno un potenziale comunicativo molto alto per varie ragioni, anche perché molto spesso si basano su delle matrici, diciamo così, molto forti, se ci pensi, no? O dei romanzi che sono già diventati dei film, o la presenza di un autore, di un regista molto noto, di un regista che diventa in qualche modo un brand, un marchio. E queste sono un po' le novità che hanno caratterizzato in questi anni la serialità anche italiana da esportazione. Sono delle evoluzioni che hanno subito anche dei produttori italiani molto tradizionali, come ad esempio la Lux Vide, che appunto è stata una delle grandi protagoniste di tante storie tradizionali, di un modo tradizionale di produrre, che adesso ha deciso di aprirsi al mercato internazionale, anche cambiando, aggiustando il tiro su alcune cose, perché insomma bisogna adeguarsi a questo modo diverso di interagire, ma sempre con quello che si può definire un po' di sapore mediterraneo, che piace molto nel mondo. Ne abbiamo parlato con il presidente di Lux Vide, Matilde Bernabei. È sempre una sfida dove bisogna andare a crescere, bisogna far passare una bella serata agli italiani. È particolarmente difficile sulle televisioni generaliste, perché oggi la gente si trova sul tablet le 10 ore già tutte insieme, e quindi bisogna farli ritornare una volta alla settimana e dopo ogni break pubblicitario. Torno da Cannes e noi abbiamo raccontato come è importante fare un Mediterranean dramma. C'è il Nordic Noir, ma noi abbiamo, oltre alla capacità creativa e tecnica di fare delle grandi storie, dei luoghi meravigliosi. Se tu hai una grande capacità di elaborare e di creare storie buone, si può assolutamente esportare anche la nostra fiction. Sometimes I justify the words I spill. E questa invece è la colonna sonora dei Medici, insomma un'altra grandissima coproduzione, Mediterranean Drama, storie del presente, storie del passato, le storie che affascinano molto. Massimo Scaglioni, Massimo, questo modo di lavorare è un pochino diverso, anche perché adesso ci sono produzioni per le reti generaliste, per le reti a pagamento, per la TV in streaming che ci ha fatto conoscere l'abitudine delle maratone, quindi diventa tutto diverso anche il modo di fruire delle serie televisive. Sì, assolutamente, questa è stata la grande novità proprio degli ultimissimi anni, anche in termini, da un lato dal punto di vista produttivo e dall'altro lato dal punto di vista del modo in cui guardiamo le serie. In effetti prima citavamo l'arrivo, la partenza, diciamo così, delle produzioni originali da parte delle pay TV in Europa una decina d'anni fa. Negli ultimissimi anni quello che abbiamo visto è invece l'inizio delle produzioni originali di queste nuove piattaforme, delle piattaforme over the top come Netflix o come Amazon Prime Video, e questo, diciamo, è l'elemento dove diciamo la tecnologia ha portato un elemento di grande novità. Dicevo sul piano della produzione, perché di fatto queste grandi piattaforme, Netflix in particolare, hanno iniziato a investire, sebbene ancora poco, ma insomma hanno iniziato a investire anche in Europa e anche in Italia. Adesso sicuramente nei prossimi anni vedremo degli investimenti molto più importanti, anche perché l'Unione Europea con la revisione della direttiva obbliga, diciamo, le piattaforme presenti sul territorio europeo a produrre di più in Europa, e dall'altro lato ovviamente c'è stata una grande trasformazione, radicale trasformazione del modo in cui si guardano, si vedono le serie televisive, quindi diciamo che un po' tutto il mercato è cambiato. Un po' le cose che diceva la Bernabei sono molto vere, perché per chi produce per la televisione generalista, in qualche modo ci sono delle difficoltà in più, soprattutto se ha l'ambizione da un lato di raccogliere un pubblico molto ampio che magari può vedere un prodotto con un appuntamento settimanale sulla televisione generalista, dall'altro lato avere l'ambizione invece di poter parlare magari attraverso le piattaforme online a un pubblico globale. Insomma, è una sfida veramente complessa. A proposito di piattaforme online e di pubblico globale, Netflix ha lanciato Suburra la serie, ha annunciato la docuserie Juventus Football Club e nel frattempo ha lanciato anche la terza serie originale italiana, cioè Baby, annunciandone anche la seconda stagione, la storia che esplora le vite segrete degli adolescenti della Roma Bene, un'esperienza importante per l'italiana Fabula Pictures. Ne abbiamo parlato con Nicola De Angelis. È andata bene perché abbiamo applicato quello che normalmente a noi italiani riesce sempre non benissimo. Siamo stati molto trasparenti. La trasparenza ripaga, una trasparenza quasi viscerale, quasi da partner, perché io non ho mai visto Netflix come un broadcaster, l'ho visto quasi sempre come un partner produttivo, e questo è stato per me una scoperta incredibile. Intanto la possibilità di lavorare veramente come showrunner, nel senso che finalmente l'applicazione di questo termine non è stata una cosa astratta, ma è stata una cosa effettiva. La libertà creativa e la responsabilità creativa e produttiva erano finalmente nelle mani dell'azienda che lo produceva, e in particolare delle persone all'interno del comparto creativo e produttivo. E questo ha reso Fabula e tutta la nostra società, in particolare poi il mio ruolo con la parte creativa, molto molto responsabilizzati, e questa è la grande differenza. Ci siamo sentiti responsabilizzati, non capita spesso, ci si sente sempre un pochino tutorati di solito in Italia, e questa esperienza con un Netflix original, quindi con Netflix in totale controllo, a differenza delle altre operazioni che sono state fatte in Italia fino ad oggi, Netflix in totale controllo di quello che accadeva, ci ha dato la responsabilità di definiti di gestione, e che è stata una cosa molto interessante. Stiamo a vedere cosa accadrà nel 2019, secondo me ne vedremo delle belle da questo Nome della Rosa che stiamo aspettando in poi. Io ringrazio Massimo Scaglioni, professore di storia grazie, e di economia dei media all'Università Cattolica. Grazie Massimo, a presto e buon anno. A presto, buon anno. E a tutti gli ascoltatori do l'appuntamento alle prossime trasmissioni di Radio 24 e anche a voi un augurio di buon anno da Marta Cagnola.